pulsioni violente, dentro complotti, mani di corrotti, su teste che vogliono sconvolte, manipolate vite, psichiatri come se girassero un cacciavite, vite regolate al minimo di una vita al limite, ragazze dinamite, intorte, preconfezionate, già maritate a vecchie muerda, a soldi e basta, l'amore che entro il cuore si devasta, nessuno regalerà una carezza a quella ragazza che pazza d'amore perduto, ora vaga nel sentiero più oscuro di un ricordo d'amore mai giunto, mai nutrito il suo volto in una carezza tanta, ma tanta dal padre, violenza in una stanza e basta. Mary sopra il beat gridava il male di vivere, quel padre era una bestia che l'ammazza. Mary sopra il beat gridava il male di vivere, quel padre era la bestia che l'ammazzava, straziava il fallito che era e la stuprava. Male, male, male, persone da torturare per il successo di un altro, questo è il delirio di un occidentale crudele, ali piegate da banconote, tra sudante blood di una terra a Auschwitz di una bambina rossa, giù a 90 dal padre, sta società non era mio padre, sta società non era mio padre, questa società non era mio padre, non era mio padre, questa società non era mio padre. Pulsioni violente dentro a complotti, mani di corrotti su teste che vogliono sconvolte, manipolate vite, psichiatri come se girassero un cacciavite, vite regolate al minimo di una vita limite, ragazze dinamite intorte preconfezionate, giù maritate vecchie muerda, a soldi e basta, l'amore che entro il cuore si devasta, nessuno regalerà una carezza a quella ragazza che pazza d'amore perduto, ora vaga nel sentiero più oscuro di un ricordo d'amore mai giunto, mai nutrito il suo volto di una carezza tanta, ma tanta dal padre, violenza in una stanza e basta. Mary sopra il beat gridava il male di vivere, quel padre che era la bestia che l'ammazzava, saziava il complotto, il fallito che era e la stuprava. Male, male, male, persone da torturare per il successo di un altro, questo è il delirio di un occidente cadavere crudele, ali piegate dalla banconota, tra sudante blood di un treno Auschwitz di una bambina rossa, giù a rappare che sta società non era mica suo padre, di una bambina rossa giù a rappare, sta società non era mica mio pare, sono pare mie, gridava Mary su quel beat, sono pare, pare dossie di una vita giunta al limite, di pere che non può più sopportare, e gridava sul beat, la società non è mio padre.